Time Out di Luca Mastrantonio. Ultime e, come spesso succede, confuse notizie dal mondo delle università. Laurea honoris causa. Il ministro dell'istruzione Gelmini l'ha proposta addirittura per Bossi, ministro che noi conosciamo essere molto comunicativo ma per espressioni a volte un po' troppo colorite. Umberto Veronesi, quando è stato ipotizzata una sua nomina all'Agenzia per la Sicurezza sul Nucleare, invece ha ricordato di aver ricevuto una laurea honoris causa in fisica, quindi gli ha dato un valore scientifico e l'ha rivendicato. Insomma, d'estate continuano ad esserci sempre nuove lauree honoris causa. Arbore a Umbria Jazz ha ricevuto addirittura dalla Scuola di Jazz di Chicago una laurea honoris causa, a breve ne riceverà altre. E addirittura abbiamo invece una fila a Catania, a Camilleri e Battiato sono da anni in attesa di una risposta dal ministro Gelmini per le lauree honoris causa proposte dall'Ateneo Catanese, che è al centro di varie polemiche. Ma le lauree honoris causa veramente aumentano l'onorabilità, il valore di un'università? O sono operazioni di marketing che certo funzionano, ma possono anche avere una ricaduta sul valore legale dell'università stessa? Benvenuti a Time Out. Io sono Luca Mastrantonio e questa mattina, come ogni sabato e domenica alle 9:30 su Radio 24, prenderò assieme a voi una pausa di riflessione dal flusso di notizie che ci sommergono su un argomento che ci interessa e cercheremo di dargli un senso, di risolvere le contraddizioni o di trovare delle nuove regole, degli nuovi schemi. Oggi parleremo di lauree honoris causa, che non vanno confuse con le lauree ad honorem che vengono date in memoria. Le lauree honoris causa sono una croce, una delizia dell'università che si confronta con la società dello spettacolo e a volte forse arrivano anche a dei paradossi. Pensate che l'università di Sassari voleva dare una laurea honoris causa a Gheddafi in diritto, non vogliamo sapere quale branca del diritto. Oppure abbiamo addirittura Liverpool, quindi non siamo solo in Italia che ne combiniamo di questo tipo, a Liverpool all'attrice di Sex and the City Samantha è stata conferita una laurea honoris causa. Ecco, noi non abbiamo pregiudizi nei confronti delle lauree honoris causa, però ci chiediamo se il sonno della ragione universitaria non possa generare dei mostri come questi. Paris Hilton, laurea in onomastica alberghiera e ginecologia mediatica. Fabrizio Corona, laurea in etica del giornalismo e disciplina autostradale. Dottor House, laurea in filosofia televisiva del rimorchio in corsia. Mario Borghezio, laurea in ufologia applicata ai flussi extramigratori. Homer Simpson, laurea in pedagogia familiare e scienze motorie. Valentino Rossi, laurea in sderapamento fiscale e ortopedia motociclistica. E siamo in linea con un artefice di questa fabbrica di lauree honoris causa che è riuscito a coinvolgere personaggi di grande richiamo anche per gli studenti, nomi pirotecnici, pensiamo a Vasco Rossi, pensiamo ad Alberto Sordi, il rettore Giovanni Puglisi dello IULM. Buongiorno. Buongiorno a lei. Una domanda bruciapelo, ma dobbiamo chiamarla magnifico o munifico? Perché insomma, di lauree honoris causa ne ha donate non poche lo IULM. Beh, guardi, innanzitutto la questione non è di magnificenza o munificenza, ma è soltanto un elemento di riconoscimento di meriti acquisiti, oggettivi, che vengono riconosciuti dal mondo universitario come esemplari per i giovani. Parlare di munificenza significa fare una considerazione di gratuità e non mi pare che nelle lauree honoris causa delle quali io sono stato in qualche modo promotore ci sia gratuità. E allora infatti facciamo un elenco così anche gli ascoltatori capiscono che stiamo parlando di grandi nomi: Edgar Morin, Alberto Sordi, Monicelli, Camilleri, Feltrinelli, anche poi un po' di politici, imprenditori, Formigoni, Rana, Giovanni Rana, che effettivamente è diventato un protagonista. C'è anche Giuseppe De Rita, se mi permette. Giuseppe De Rita, Tornatore. Una personalità eccezionale. Costanzo Tornatore. E soprattutto Bongiorno. Forse con Mike Bongiorno si è consumata una piccola vendetta da parte di Bongiorno nei confronti degli accademici che un tempo, come Umberto Eco, all'inizio forse volevano decostruirlo e deriderlo. Forse alla fine ha vinto Bongiorno o Umberto Eco, secondo lei? Ma credo che ha vinto il buon senso nell'uno o nell'altro. Ognuno dei due ha fatto una sua strada. Umberto Eco all'inizio ha costruito il caso Bongiorno come caso di scuola, Buongiorno ha dimostrato che spesso la scuola non riesce a incontrarsi con la realtà. La scuola in questo caso è stata la realtà dell'esperienza di Buongiorno. Lei sicuramente ci può aiutare tra l'altro a sciogliere forse subito un'ambiguità, perché nella percezione comune si confondono le lauree honoris causa con quelle ad honorem, quando appunto la laurea ad honorem viene data a studenti caduti in guerra. Bravo. Chiariamolo, perché spesso noi giornalisti confondiamo. Le lauree ad honorem sono lauree che vengono date ex post a persone che non le possono più ricevere personalmente, e sono in genere date a studenti che magari hanno finito tutti gli esami e poi purtroppo per un incidente o per qualche altro motivo passano ad miglior vita, come si usa dire, e allora l'università riconosce ad honorem la laurea che però di fatto aveva un percorso già esaurito. No, è chiarissima la differenza, però è utilissimo per i nostri ascoltatori. Le rubiamo ancora qualche secondo e ascoltiamo assieme un candidato a una di queste lauree honoris causa. Ma la Lega Nord ce l'ha duro! Duro! Duro! Guardatevi, queste lezioni potrebbero finire con la necessità di imbracciare il fucile e di andare a prendere queste canaglie. La canaglia centralista! E allora ci aiuti, rettore, lei a Bossi la darebbe una lauree honoris causa? Ma guardi, io vorrei fare una distinzione. Anche per quello che abbiamo sentito, che sono sicuramente degli slogan tormentoni, però. Sì, indubbiamente, se andiamo a leggere queste battute o sentire questi slogan, indubbiamente uno non si incoraggia a una cosa del genere. Però le devo dire con tutta onestà una cosa. Se la laurea honoris causa è il riconoscimento di un impegno, di una carriera, di un'esperienza, di un'attività, questo impegno lo si misura nella quotidianità con la lungimiranza dell'intuizione e nel tempo con i valori della storia. Io credo che i libri di storia fra 20, 30, 40, 50 anni, forse due o tre righe, a Bossi le lasceranno, mentre a molti altri protagonisti molto più decantati, anche con orpelli di nobiltà, di queste nostre settimane agostane non lasceranno neanche una parola. Quindi la proporrebbe una laurea honoris causa in scienze della comunicazione a Bossi? Sì, no? Risposta secca. Ni. No. La darebbe sì o no? Sia comunicativo. Guardi, adesso non mi faccia essere bizantino. La laurea in scienze della comunicazione honoris causa non esiste, perché si possono dare solo le lauree in magistrali. Ora, una laurea magistrale secca di scienze della comunicazione non c'è. Per esempio, una in comunicazione politica non sarebbe una cosa del tutto oscena. Per Bossi, una specialistica in comunicazione politica. La ringraziamo, rettore, grazie di essere stato con noi. Una specialistica di comunicazione politica. Chiarissimo. Sottolineo. Grazie. Grazie, rettore. E quindi vediamo che è anche un atto di fede a volte, con apprezzare o non apprezzare un personaggio, indubbiamente una laurea honoris causa è il coronamento di una carriera. Nel caso di Bossi, per il rettore Giovanni Puglisi, appunto, una specialistica in comunicazione politica non sarebbe assolutamente uno scandalo. Il clarinetto, quello che fa filu filu filu fila. E quindi sempre le lauree honoris causa al centro della nostra puntata di Time Out. Abbiamo parlato prima di nomi del mondo dello spettacolo che a volte servono a lustrare delle lauree anche un po' tradizionali, un po' magari con poco appeal, e invece la laurea che è stata data a Renzo Arbore è filologica, perché è stato laureato in jazz honoris causa dalla Berklee College of Music di Boston, e siamo in collegamento con Renzo Arbore. Buongiorno Renzo Arbore. Buongiorno a tutti. Sì, mi fa molto piacere una laurea seria in jazz. Del resto, da quando avevo 14 anni io ho bazzicato il jazz, e ancora lo bazzico, e ancora è la musica della mia vita, insieme alla musica popolare di tutto il mondo, compresa quella napoletana naturalmente. Infatti questo è stato un riconoscimento internazionale. Ricordiamo che, tanto per dire un nome, nell'albo d'oro c'è anche Duke Ellington della College of Music di Boston. Quindi certo, è stato uno dei primi, eccetera. Però sulla traduzione in italiano dell'honorary degree, volevo confessare che ho trovato su internet che tutti parlano di laurea ad honorem, ma le lauree ad honorem si danno ai trapassati, e lei è tutto tranne che trapassato, è una laurea honoris. Grazie a Dio. sto facendo gli scongiuri, grazie a Dio, no, ma no, le lauree d'onore, io non lo sapevo che si danno tra passati. Sì, ai militari. Sono alla memoria. Esatto, alla memoria, soprattutto agli studenti militari che prima o dopo una guerra non hanno potuto continuare. Questo certamente, soprattutto le medaglie, le cose eccetera. No, ma la laurea d'onore si dà per i trascorsi in realtà. Certo. Io ho avuto altre lauree d'onore, ma ho avuto una... Ad honoris arbore, ad honoris, honoris causa. Honoris causa. E con la relativa promozione, perché poi bisogna fare la lectio magistralis, non è una cosa che tu conquisti così. Nel caso della laurea della Berkeley non c'era bisogno. Bisogna suonare. Ho avuto una laurea ad honoris causa all'Università di Foggia in Lettere e Filosofia, partendo da un tema che mi aveva dato il mio professore di italiano, quindi ho fatto la lectio magistralis su quello. Poi un'altra, la New York University con l'Università per Stranieri di Perugia a New York, e lì ha dovuto fare un'altra lezione magistralis. Adesso se ne annuncia una all'Università di Chieti, che mi fa molto piacere. Noi ci permettiamo però di considerare quella più filologica, la laurea che ha ricevuto da Boston, perché ci sembra più filologica. Ma visto che lei, diciamo, ha avuto un lutto di strumenti, le rubarono, stavo dicendo rapirono, perché c'è un'anima, il suo clarinetto. Sì, tanti anni fa mi rubarono il clarinetto, fu una vicenda molto... perché io in realtà dissi in una trasmissione di Baudo che mi avevano rubato il clarinetto e il ladro, come se fosse un figlio, sarebbe stato molto carino se me l'avesse fatto trovare sui gradini della chiesa. Come i bambini venivano esposti. Ma lei... infatti io li ho trovati, mi ha chiamato il parroco della mia chiesa e mi ha detto mi hanno portato un clarinetto per lei. E quindi poi sono risalito alla... Ma non era, purtroppo non era quello, immagino. No, era quello. Era stato, è stato ricettato e quindi poi venduto ad altre persone, però alla fine mi è stato... Ma dato. Se le avessero detto, rinunciando a tutti questi titoli per il clarinetto, lei metterebbe tutte queste lauree honoris causa su un piatto e sull'altro il clarinetto, cosa sceglierebbe? Il clarinetto è lo strumento col quale io ho iniziato la mia carriera, senza di quello io non avrei avuto neanche le lauree. Esatto. No, neanche le lauree, perché da lì sono partito, dalla passione. E concludiamo invece, a proposito di lauree un po' pazzerelle, ha saputo che la ministra Gelmini avrebbe proposto di conferire una laurea honoris causa in comunicazione a Bossi. Bossi sicuramente ha creato degli slogan, il cielodurismo, Roma ladrona, ma lei una laurea in scienze della comunicazione a Bossi la darebbe? Francamente no, perché non li trovo degli slogan molto originali. Roma ladrona non fa manco rima. Roma è con la M, la Roma dovrebbe essere, quindi non va. Non, per me che sono un inventore di slogan dai tempi di non capisco ma mi adeguo, oppure di altro vedimento, e il cielodurismo non mi piace, poi ci sono alcune parole che proprio io odio, i tronisti, questa roba qua. Perché i fucili, i fucili di Bossi che diceva per la canaglia romana. Per carità, quindi lei non capisce e non si adegua questa volta. No, non capisco, non mi adeguo, e credo che la comunicazione, insomma, aspetti a dei grandi giornalisti come per esempio Giorgio Bocca, che festeggia i 90 anni al quale mando gli auguri attraverso Radio 24. E noi ci associamo, la ringraziamo di essere stato con noi e facciamo nostro lo slogan di Renzo Arbore, che commenta la proposta di avere una laurea honoris causa a Bossi in scienze della comunicazione: non capisco, non mi adeguo. E finisce qui la prima parte di Time Out. Restate con noi. Time Out. Dottore, una cosa urgentissima, mi sento come una bombola d'ossigeno per vecchietta al piano di sopra che si sta sentendo male. Perché io stavo al bagno, no? Stavo a lavare i capelli a mia nonna, no? A un certo punto però ho sentito come un botto, un boato, no? Soccorso sopra, infatti c'è stato il vecchio del piano di sopra, esamina vicino alla tazza. Siccome respira un affanno, c'è proprio un murantolo, io penso che una bombola d'ossigeno, cioè gli dovrebbe dare attorno, capito? Quant'è? 6.000. Ah, giusto. Senti, è facile da usare? Sono le istruzioni. Ah, non mi posso sbagliare? Non si può sbagliare. Sicuro, ma posso sbagliare sicuro. Proprio? Sicuro? Sicuro. Mi raccomando. E poi c'ho pure mia nonna con i capelli bagnati in mezzo alla corrente tenibile. Che ti danno una salata. Grazie a tu. Ecco, se non avessi fatto l'attore regista, avrei fatto sicuramente il medico. Ma perché? Io diagnosi, ne ho fatte diverse, l'ultima l'ho fatta al mio sceneggiatore, ho detto guarda che tu hai un focolaio di broncopolmonite dopo 48 ore, lui mi ha fatto così, io ho detto, dico vai, lo sento dalla tosse e da questa febbre che è ferma sui 37, che è tipico di chi ha broncopolmonite. E quindi abbiamo sentito Carlo Verdone, ipocondriaco di professione, che quando recita e quando ritirando una laurea honoris causa in medicina, pensate un po', recita anche in quel caso, fa un grande show, però non so voi, io con Verdone andrei volentieri a una sera a fare due chiacchiere, ma non mi farei visitare, andrei dal medico di famiglia, come suggeriva lui stesso. Le lauree honoris causa appartengono quasi più ormai alla società dello spettacolo che al mondo dell'università, e ne parliamo con il rettore di un'università, la Bocconi di Milano, che ha una politica molto chiara sulle lauree honoris causa, che è contrario. È in linea e salutiamo Guido Tabellini. Buongiorno rettore. Buongiorno. Ecco, la Bocconi, dicevamo, è contro le lauree honoris causa, non ne ha mai conferita, se non sbaglio, alcuna. Ci vuole spiegare perché? Sì, contro è una parola forte, però è vero che non ne abbiamo mai conferita nessuna, probabilmente per due ragioni. La prima è che per tradizione noi pensiamo che la laurea presa in Bocconi meriti un impegno di studio e di esperienza anche nel mondo professionale, ma non è un'onorificenza, è un titolo che uno acquisisce con il suo lavoro. La seconda è un po' ricondotta all'osservazione che faceva lei nell'introduzione, cioè effettivamente molte lauree honoris causa sono date per scopo di comunicazione, più per attirare attenzione sull'università che rilascia il titolo piuttosto che per onorare una persona, sono date a personaggi dello spettacolo, a persone visibili. E allora come università noi preferiamo, se vogliamo fare propaganda alla Bocconi, a usare altri strumenti di comunicazione che ci sembrano più efficaci. Abbiamo occasioni di onorificenze che noi diamo ai nostri laureati, Bocconiano dell'anno è un'onorificenza credo importante che viene data tutti gli anni a un illustre laureato della nostra università, e poi più in generale in occasioni importanti come l'inaugurazione dell'anno accademico, conferenze. È chiarissimo, voi diciamo non capovolgete il principio, cercate, fate in modo che un bocconiano possa sfondare nei vari mondi, in vari mercati, e lo celebrate, laddove invece molte altre università prendono qualcuno che ha sfondato magari nel mondo dello spettacolo e un po' se lo appiccicano. In questo lo diciamo noi, insomma è un po' capovolto il mondo. Ma poi c'è anche un problema di valore, se non sbaglio la laurea honoris causa comunque un valore di titolo di studio, e questo in termini economici lei ci potrà spiegare meglio che sarebbe una svalutazione. Se la Bocconi desse ogni anno una laurea honoris causa, forse ognuna delle lauree che gli studenti prendono studiando forse varrebbe un po' meno. Ma oddio, noi laureiamo tantissimi migliaia di studenti, quindi non è una laurea in più che cambierebbe, però l'immagine probabilmente dell'università non necessariamente ne gioverebbe. E concluderei un po' il tormentone da cui siamo partiti per questa puntata di Time Out sull'ipotesi della Gelmini di dare una laurea honoris causa a Bossi. La Bocconi non è contraria, ma diciamo non è favorevole a questa politica dello spettacolo della laurea honoris causa. Vogliamo comunque un suo parere su questa ipotesi di considerare Bossi meritevole di una laurea honoris causa in comunicazione. Lei come la vede? Su questo non ritengo di dovermi esprimere, le ho detto l'opinione della nostra, la politica della nostra università, poi nel merito è una questione politica che non mi riguarda. Insomma, si può sottrarre, non ha questa spinosa questione. Noi la ringraziamo di essere stato con noi, a Guido Tabellini, il rettore della Bocconi di Milano. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. E ci sono momenti in cui invece ci sono contestazioni molto forti per altre lauree honoris causa, come a Catania. Il Senato accademico ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Francesco Bellavista Caltagirone, sostanzialmente quello che ha costruito il palazzaccio davanti al porto. Spesso ci sono grandi nomi che hanno poco da discutere per le lauree honoris causa, è il caso di Emanuele Macaluso, che ha ricevuto il 28 giugno dall'Università di Catania una laurea honoris causa in storia contemporanea e parlamentare. Altre invece sono più discusse, ne parliamo con il rettore dell'Università di Catania, Antonio Recca, per capire meglio come funzionano questi meccanismi. Buongiorno rettore. Buongiorno a voi. Ecco, abbiamo citato il caso di Emanuele Macaluso, dove diciamo c'è poco da discutere, come si dice. Invece ci sono altri casi più controversi. Se non sbaglio, all'Università di Catania sono ferme le pratiche della laurea honoris causa a Franco Battiato e ad Andrea Camilleri. Ci aggiorni? I due casi da lei citati si riferiscono a delibere della facoltà di lettere. Esatto, lettere e filologia moderna, se non sbaglio. Il senato accademico, sulla base della proposta della facoltà, prende in considerazione appunto la proposta e la approva. Entrambi i casi a cui lei fa riferimento sono stati approvati dal senato accademico ormai da tempo e le pratiche sono state trasmesse al ministero. Per Battiato durante la precedente gestione c'era stata una lite in senato che poi con il mio insediamento è stata sanata e la delibera è passata anche nel caso di Battiato all'unanimità. E quindi però stiamo parlando le pratiche sono al ministero che non sono attito utili a quel punto, cioè il ministro utilizza anche il ministro la sua autonomia nell'approvare o non approvare alcune. Ma non vi danno risposte? Anche alla luce delle proposte che non c'è dubbio sono numerose, perché diciamocelo chiaro, le università negli anni scorsi avevano esagerato. Già Musti mise un freno a questa consuetudine. Deriva. Io come rettore mi guardo bene dall'intervenire in un caso o nell'altro, perché non sarebbe corretto nei confronti delle proposte che comunque sono state approvate dal mio senato accademico. D'altronde forse il caso di Camilleri è anche un po' spinoso, viste le uscite di Camilleri nei confronti del ministro Gelmini. Qui forse si può creare un incidente diplomatico che forse... Ma guardi, io ho delle proposte di professori noti in campo internazionale, bravissimi, che vengono dal mondo della facoltà scientifiche e quindi non la metterei in politica. Cioè, voglio dire, così come il rettore, così come il senato accademico, così come le facoltà utilizzano la loro autonomia nell'approvare o non approvare una proposta, io penso che anche il ministro pro tempore debba avere questa sua autonomia di decisione. Quindi, sintetizzando il suo pensiero, non quando riguarda per esempio Macaluso, è arrivato l'ok del ministro nel giro di un mese. Nessuno da parte nostra l'ha sollecitato. Si vede che il ministro ha capito che in questo caso c'era la piena convergenza e quindi ha ritenuto di dare l'ok immediatamente. Altri casi sono bloccati. Quindi insomma non c'è nessun motivo politico, almeno questa è la sua impressione. Lei comunque non se ne fa un grande cruccio. Le ripeto, cioè Macaluso sicuramente non è di destra e quindi però il suo carisma probabilmente ha portato il ministro a dare subito l'ok. Negli altri casi non c'è lo stesso carisma. Non le so dire, capisco. Non c'è lo stesso carisma. La mia autonomia finisce quando comincia quella degli organi superiori. Concluderei invece qui, allora invece andiamo su una laurea honoris causa, anche qui facendo le ricerche abbiamo visto che forse quella più contestata della sua università è stata quella all'ingegnere Francesco Bellavista Caltagirone. L'accusavano, ci fu una contestazione davanti alla facoltà, di indulgere verso un imprenditore importante legato a una famiglia, quella appunto Caltagirone, legata all'UDC, e lei da poco è stato nominato coordinatore per l'UDC della Sicilia. Noi ovviamente siamo garantisti, ma come evitare che ci possa essere un fumus? Non mi pare che ci siano casomai reati. Questa proposta è partita all'unanimità dalla facoltà di scienze politiche. Il senato accademico l'ha approvata all'unanimità, così come le ripeto che ne sono state approvate altre 6 o 7 all'unanimità, perché generalmente se c'è una delibera all'unanimità delle facoltà, l'orientamento del senato accademico durante la mia gestione è stata quella comunque di approvare le proposte delle facoltà e di inoltrarle al ministero, che però in questo caso è stato più rapido. Caltagirone, certo, L'ha approvata all'unanimità la facoltà di scienze politiche, della quale io non faccio parte, certo, Il Senato accademico l'ha approvata all'unanimità. Il ministro Gelmini, in questo caso, così come nel caso di Magaluso, ci ha messo più tempo, perché proprio Magaluso è stato immediato. Un mese. Qui quanto ci ha impiegato? Qui, mi pare, se non ricordo male, almeno 3-4 mesi. 3-4 mesi. Per quanto riguarda poi il problema dell'UDC, c'è un po' di confusione, perché non è il genere questo di Casini, questo a cui abbiamo dato la laurea, ma è un suo, mi dicono, anche lontano cugino. Però su abbiamo visto un mese Macaluso, 3 mesi Francesco Bellavista Caltagirone, saranno 3-4 anni Camilleri e Battiato. Lei su questo non si preoccupa? Ma non sono per niente preoccupato, sono più preoccupato per il sistema universitario che è abbandonato a se stesso ormai da anni. Perfetto, noi la ringraziamo per il confronto che è stato molto chiaro, grazie al rettore Antonio Recca dell'Università di Catania, e possiamo affermare, dopo aver sentito protagonisti o ospiti d'eccezione come Renzo Arbore, che una laurea honoris causa per una facoltà come Scienze della Comunicazione può sicuramente essere uno spot importante per nuovi studenti da immatricolare, ma per le facoltà più serie come Economia alla Bocconi e come Lettere a Catania, ci ha ricordato il rettore, servono forse più soldi e un piano serio per rilanciare l'università, più che moltiplicare le lauree honoris causa. Io sono Luca Mastrantonio, vi saluto, ringrazio Alessandro Chiappini in regia, vi do appuntamento a sabato e domenica alle 9:30 su Radio 24. Grazie. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence.